Good morning everyone. Vuol dire buongiorno a tutti in inglese. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Con che faccia tu dici agli studenti che l'America è un paese grandioso, come se fossimo gli unici al mondo ad avere libertà? In Canada c'è libertà, in Giappone c'è libertà, in Inghilterra, Francia, Italia, Germania, Spagna, Australia, in Belgio c'è libertà. Sai che su 207 stati sovrani in circa 180 c'è libertà. D'accordo. E tu, sciocca ragazzina, se per sbaglio entrerai in una cabina elettorale, devi sapere un paio di cose. Ad esempio, non ci sono prove a sostegno dell'asserzione che siamo il miglior paese al mondo. Siamo settimi in alfabetismo, 27esimi in matematica, 49esimi in aspettativa di vita, 178esimi in mortalità infantile, terzi in reddito medio familiare, quarti per forza lavoro ed esportazioni. Primi al mondo solo in tre categorie: massimo numero di carcerati pro capite, numero di adulti che credono agli angeli e spese militari. Spendiamo il totale dei 26 paesi dopo di noi, 25 dei quali alleati. Certo, non è colpa di una studentessa ventenne, però tu fai sicuramente parte della peggiore generazione di sempre. Quando ci chiedi cosa fa grande l'America nel mondo, non so di che cazzo stai parlando. Di Disneyland. The Newsroom, serie americana molto popolare che segue le vicende lavorative dell'anchorman Will McAvoy. In questo brano che risponde alla domanda di una studentessa, che cosa rende grande l'America? La risposta l'avete già sentita. Io saluto Pierluigi Pardo e Tommaso Labate che hanno fatto notte per capire chi era il nuovo presidente degli Stati Uniti. No, Labate si è addormentato. Si è addormentato? No, non mi sono addormentato. Labate, se Labate è uomo deve dire delle cose. Labate, prego. Allora, allora confesso che seguendo la CNN a un certo punto avevano praticamente assegnato quasi, sostenendo che il recupero fosse impossibile, la Florida alla Clinton. Dato che nella chat che condivido anche con l'amico Pierre ho cominciato a dire ragazzi andiamocene a dormire, è finita. Devo anche ammettere con mia somma dispiacere che Pardo ha detto ragazzi calma, ragazzi, ma io ho detto vince Trump all'1:24 perché c'erano tutti sì, i segnali questo, che questo gli va dato atto. Comunque l'abilità di Pierre nell'individuare il candidato americano è stata veramente encomiabile. Sarebbe stato molto più difficile risolvere il rebus del casting dell'Inter, però per questo ci vuole ancora più esperienza. Sì, per questo ne parleremo dopo, ma io vorrei capire come ha fatto Pardo a risolvere il rebus. Ma non lo so, secondo me avrà consultato la zingara. Bastava guardare CNBC che c'aveva, basta guardare per carità, la Florida era testa a testa, però insomma era abbastanza evidente che c'era un vento abbastanza preciso. Poi la cosa banale è che nelle grandi città si vota sinistra, diciamo, questa vecchia espressione, no? Si vota democratico, e nei collegi invece rurali si vota prevalentemente repubblicano. Sì. È abbastanza impressionante se andate a vedere veramente il collegio per collegio, vedere che da un posto all'altro, magari con 20 km di distanza dalla città alla campagna, si passa da più 30 Clinton a più 30 Trump. Comunque, insomma, dai, è stata dal punto di vista dello spettacolo una grande notte. Speriamo che questo presidente faccia bene. Mi sembra, e poi ovviamente parleremo di calcio, però mi sembra veramente l'epoca della lotta all'establishment, no? L'epoca degli outsider, tutto ciò che va contro i poteri costituiti, che va contro la saggezza, la teoria, certe istituzioni, probabilmente scalda i cuori molto di più, e credo che poi alla fine Trump abbia scaldato i cuori degli americani molto di più di Hillary. Chissà il vecchio Sanders, come no, che non ha vinto le primarie dei democratici perché probabilmente era troppo posizionato su posizioni di sinistra, però sembrava un candidato caldo quello, sembrava un candidato con, posso dire, sexy in senso lato, cosa che non è stata certamente Hillary, che evidentemente è stata vista come l'espressione di un certo tipo di poteri, di lobby, e da questo punto di vista ne parlerete, ne parleranno tutti a Radio 24 e ovunque da stamattina. Mi sembra che siamo non molto distanti dalle suggestioni del Brexit o di altre vicende molto europee. Tommaso, cosa ne pensi? Cosa ha pagato Hillary Clinton? Guarda, Hillary Clinton ha pagato l'essere, guarda, quello Piero l'ha detto molto bene, l'essere rappresentante di un'elite considerata molto distante dalla gente comune, perché è l'epoca di chi scalda i cuori, ma che l'epoca di chi scalda i cuori arriva nel momento in cui la gente comune vive momenti di crisi e cerca sogni e calore a cui appellarsi. E paga, secondo me, sì, anche come sempre accade in America, no, Tommy? Come sempre accade in America, nei momenti di difficoltà, nei momenti di insicurezza, anche dal punto di vista internazionale, si cerca sempre un presidente che abbia una mano forte, per la serie, no? per la vecchia regola di sparigliare nel momento in cui tu non hai delle opzioni che ti convincono. E questo, secondo me, non perché Trump abbia fatto la campagna che ha fatto, perché effettivamente la maggioranza del popolo americano voglia cacciare i musulmani o voglia un muro lì hanno pagato diverse cose: il fatto dell'establishment, il fatto che comunque si fosse in un si rischiasse un presidente che stava nello stesso stato di famiglia di un presidente recentemente passato, cioè Clinton, a cui molti rimproverano l'origine dello strapotere della finanza. Ricordate il cambio che venne fatto tra banche di investimenti e banche d'affari, cioè proprio la fusione, la mancata distinzione che risale all'epoca Clinton e che secondo molti è proprio uno dei tasselli dell'inizio della crisi economica finanziaria che riguarda tutti. E poi aggiungiamoci anche una certa antipatia, perché diciamo, se dovessimo scegliere tra simpatica e antipatica, pescheremmo la busta numero 2. Hillary non è un mostro di simpatia, questo possiamo dirlo diciamo senza tema di smentita e senza offendere nessuno. Perché Trump è un mostro di simpatia. Non è un mostro di simpatia, ma è la stessa dinamica che si aveva tra Prodi e Berlusconi, o tra il leader del centro-sinistra di qualsiasi e Berlusconi. Il leader del centro-sinistra qualsiasi, si chiamasse D'Alema o Rutelli o Giuliano Amato, non era un mostro di simpatia. L'altro era un mostro che secondo la maggior parte era di simpatia e secondo gli altri di antipatia. E comunque nel momento in cui riesce a polarizzare in questo punto una scelta, è facile che questa ti premi. Aggiungo solo pochi secondi, una piccola considerazione rispetto a quello che diceva Pardo prima, alla differenza città e campagne. Guardate che nel piccolissimo sono delle dinamiche sociali che stiamo vivendo anche in Italia. Il fatto che nella città di Roma il centro storico, soltanto il centro storico e i quartieri vicini al centro storico, premino il candidato considerato quello dell'establishment, quello del Pro Olimpiadi, quello del partito di governo, e tutto il resto della città voti contro, in realtà è la riproposizione in bonsai di quello, di niente di più e di meno, di quello che è successo in fuori, la stessa identica cosa. Sì, sì. Grazie Tommy, la prossima volta parliamo di Inter. C'è il traffico? Non parlare di traffico. C'è il traffico. Pardo, c'è il traffico. Ciao a tutti. Ciao Tommaso, no, Labate. Stai qua. Aspetta, perché? Aspetta Labate. Sì, dai, parliamo altri 3 minuti di questa roba, poi va bene, poi andiamo su, sull'Inter e su Pioli, eccetera. Va bene, traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovie. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta convocati. Va bene, ora io in questa discussione in corso tra Pardo, Tommaso Labate, vorrei inserire anche Gigi Garlando, la prima firma del calcio sulla Gazzetta dello Sport, perché è interessante anche il suo punto di vista. Ciao Gigi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, dove eravamo rimasti, Pardo? Ma no, io volevo aggiungere una cosa sul fatto che mi sembra che in quest'epoca, e questo mi sembra valga anche molto per l'Italia, tutto ciò che è, tra virgolette, razionale, tutto ciò che in qualche modo è istituzione, pensate a quanti giornali hanno fatto campagna per la Clinton, pensare quanto fosse evidente che oggi le borse sarebbero crollate, no? Anche se in realtà mi pare che in Italia e in Europa stiano tenendo, ma insomma che fosse logico, che fosse auspicabile, che fosse razionale la vittoria della Clinton, ma tutto questo oggi non aiuta, nel senso che secondo me oggi avere l'endorsement dell'Unione Europea, delle banche, di gente assolutamente, anche di cose razionali, anche di cose assolutamente razionali, quasi porta sfiga. Cioè quasi oggi avere questi endorsement, cioè essere appoggiati da tipo di istituzioni, da questo tipo di logica e di razionalità, per il tipo di umore, io mi occupo di sport, però insomma e quindi non sì, però politica. Siamo tutti cittadini di questo mondo, sì, siamo, no? Cittadini e viaggiamo, no? Giriamo per gli stati, insomma, prendiamo i treni. Allora, sentiamo il pensiero di Luigi Garlando. Ma io mi sono perso le puntate precedenti, come fate a collegare l'Inter a Trump e alla crisi? Datemi qualcosa che vi siete detti fino a adesso. Te l'hai dato Masolabate. Dove siete rimasti? Te l'hai dato Masolabate. Guarda, collegamenti con l'Inter molto li faccio, però la cosa che diceva Pierre è molto interessante. Nella misura in cui stiamo assistendo, Brexit ne è un esempio, la vittoria di Trump è un altro, ha un fenomeno molto delineato, cioè nel momento in cui si prospetta all'elettorato un'opzione che sicuramente darà fastidio ai mercati, sicuramente provocherà la tempesta nelle borse, sicuramente provocherà meno stabilità, la maggioranza dell'elettorato è portata a ignorare questi tipi di alle. È quasi a considerare, tra virgolette, più potabile, più simpatico quello che provoca instabilità. Mi sembra un dato del nostro tempo. Sulla parola stabilità e quindi su quella instabilità ho creato a mo' di cucina delle medie un assist per l'amico Gigi Garlando per parlare di Inter, perché l'Inter di instabilità ha fatta squadra. Però posso dire che Pioli, posso adesso, visto stiamo giocando, sì. Pioli era la Clinton e Marcelino era Trump. Pioli è la scelta logica, sto facendo un complimento a Pioli, nel senso, Pioli secondo me è la scelta più giusta, la scelta più razionale, la scelta più potente, la scelta certamente meno esotica, un po' come poteva essere la Clinton, che vabbè, adesso queste ore ci sembrano una sfigata a tutti, ma fino a ieri era ovviamente la grande favorita. L'Inter ha scelto, una volta tanto ha scelto la razionalità, ha scelto l'allenatore che probabilmente riuscirà, conoscendo bene di che cosa stiamo parlando e ovviamente il nostro campionato, riuscirà a ottenere risultati subito. Altre ipotesi erano certamente più fantasiose, diciamo, avrebbero spaventato i mercati. Sì, Gigi. Sì, no, questo è senz'altro. Cioè, l'Inter è così per costituzione allergica alla normalità, però almeno ha provato questa sterzata con Pioli di scegliere la via senz'altro più razionale, perché ha fatto di tutto per adesso per farsi del male e per annullare anche quella potenzialità incredibile tecnica che ha in casa. Per cui insomma si augura una svolta, diciamo, spallettiana, perché è quello che poi è successo l'anno scorso alla Roma. Cioè, nel momento in cui è arrivato un uomo che ha imposto delle regole e anche la cultura del lavoro, perché poi si sentono le stesse cose, no? Echeggiano le critiche di De Boer, dell'Olanda, c'era gente che non voleva lavorare, un po' le cose che si sono sentite poi quando se n'è andato via Garcia. Ecco, si auspica, almeno l'Inter auspicano, che con una ripresa di una cultura del lavoro, insomma, dignitosa, e poi con la razionalità di Pioli, che conosce l'ambiente in cui lavora, si possa ripartire e insomma in cascina il fiero dell'Inter. Tanto hanno un capocannoniere, hanno il migliore portiere del campionato, quindi ai due estremi sono già messi meglio degli altri, se in mezzo sistema un po' le cose, insomma questa squadra può ripartire. Gigi, mi puoi dire la tua invece, fuori dal tuo campo, sull'esito delle elezioni americane, che la giriamo alla Bate prima di salutarlo? Sì, ovviamente così è. Bisogna un po' fare i conti con questa sensazione un po' generale, ma forse anche quasi più a pelle, anche di gente che magari non è così dentro le cose, ma di un evento traumatico che è avvenuto questa mattina al risveglio. E quindi, insomma, poi bisogna vedere se sarà così traumatico come sempre, anche se ovviamente, diciamo, le promesse ideologiche, le promesse di muri non possono fare stare tranquilli nessuno, però ecco, no. Voglio aspettare insomma queste ore, così di paura a caldo per vedere poi quando si depositeranno le cose che scenario avremo. Guarda, io dico la verità, Tommaso, prima di salutarti, sto cercando un paese in cui scappare. Sì, ragazzi, io la prima sensazione, Carlo, a caldo è questa per tutti. La verità, approfondendo meglio, è che pensiamo che effettivamente la democrazia è la miglior forma di governo è su tutti gli altri. Se pensiamo che... sì, ma nessuno mette in discussione questo, Tommy. Certo. Nessuno mette in discussione questo. Sì, no, ma questo, lo so, rafforzavo il tuo ragionamento. Detto questo, io sinceramente penso che il sistema degli Stati Uniti, il fatto che comunque Trump non è che sia il padrone del suo partito, anzi è un partito che avrà la maggioranza in due camere e che comunque non l'ha tollerato e non lo voleva fino ad oggi. È un sistema che ha dei pesi e contrapesi per resistere a un eventuale Charlie Chaplin che gioca come il grande dittatore col mappamondo nella sua stanza. Quel sistema ha dei pesi e dei contrapesi, e uno dei contrapesi è il partito stesso di Trump, di cui Trump non è il padrone e che non lo voleva. Guarda, io in una botta di ottimismo ho incontrato, tra l'altro, a margine del premio Scopigno, poi adesso magari vi passo qualcuno. Oggi abbiamo eletto i vincitori del premio Scopigno qui a Rieti ed è venuto a trovarci il sindaco d'Amatrice Sergio Pirozzi. Insomma, dopo che parli con lui 5 minuti ti viene un ottimismo su tutto, perché se quest'uomo ha ancora forza e voglia con tutti i problemi che la sua comunità sta avendo, insomma, credo che l'ottimismo debba essere veramente una condizione dello spirito che vale per tutti. Il discorso di Trump di stamattina mi sembra un discorso incoraggiante da questo punto di vista. Trump ha detto delle cose terribili in campagna elettorale, poi ne ha dette altre di segno opposto. Come diceva giustamente la base, il Partito Repubblicano comunque è un partito strutturato, quindi sì, non è che anzi, appunto, per tornare a vincere ha avuto bisogno di una figura così controversa e detestata da molti, no? Quindi i contrappesi ci sono tutti, la democrazia può essere terribile ma va accettata e sempre e comunque, in questo caso. Quindi io sono curioso, non voglio dire che sono ottimista, ma poi magari Trump ha avuto bisogno di quegli slogan e di quelle promesse in campagna elettorale per conquistare la maggioranza, e troveremo un Trump che sarà diverso. Pierluigi, facciamo così, vi viriamo discorso un attimo. Vai. Salutando Tommaso Labate e introducendo invece il discorso cambio della guardia all'Inter con Gigi Garlando. Che Inter sarà? So che il passaggio è brusco, però è anche obbligatorio. Siamo tutti convocati e parliamo di sport. Gigi. Sì, no, per finire il discorso, proprio così poi cambiamo. E quello che dicevo era proprio questa paura irrazionale anche di vedere, di immaginare non solo l'America, ma il mondo in mano, no, a una persona sola. Poi in realtà, insomma, la democrazia è un'altra cosa. Se pensiamo anche alle difficoltà che ha avuto Obama poi di realizzare i suoi programmi, insomma, di fare una riforma sociale che poi è fermata a metà, insomma, le stesse difficoltà poi nel gioco dei contrappesi le avrà ovviamente anche Trump, che, come diceva giustamente Pierluigi, c'è un Trump che ha avuto bisogno di dire e fare delle cose per arrivare lì, e ce ne sarà uno che probabilmente sarà almeno parzialmente diverso quando dovrà comandare. Certo. Tornando all'Inter, che Inter sarà? Come ti dicevo prima, io credo sarà l'Inter del buon senso, come non lo è stato fino adesso, come ha cercato di rovinarsi. Poi gli uomini sono questi, la prima mossa sarà quella di capire chi metterà davanti alla difesa, che poi è la chiave di questa squadra, la chiave di questa Inter, insomma, dove hanno fallito di Condobbia, dove ha fallito. Tu chi metteresti? Manetta. Ma vedrai che alla fine poi torna Medel e tutti sono tornati lì e poi condannano il cileno, ma poi alla fine è quello che garantisce nelle due fasi forse l'equilibrio migliore. Io forse ancora Banega per non buttarlo via, insomma, con magari Brozovic e Joao Mario ai suoi lati. Banega cos'è? Una mezzala, un trequartista? Non si è ancora capito, no? È un incursore, può fare il trequartista o può fare l'incursore. Le cose migliori le fa vicino alla porta avversaria. Certo, però, appunto, perché ha dei grandi piedi, cioè ha una qualità di piede che nell'Inter di oggi hanno pochi. Cioè, esatto, è il leader tecnico del centrocampo. E poi ha una certa, anche, diciamo, come dire, presunzione tattica, che lo perde che lo porta a perdere anche dei palloni sanguinosi, quindi effettivamente nella posizione lì davanti può essere pericoloso. Però per non arretrare sempre alla soluzione, magari Medel potrà esserci un'occasione o delle occasioni in cui potrà giocare con una mediana interamente di qualità. Ciao Gigi, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, Gigi. Ciao. Ciao. Salutiamo Gigi Garlando, andiamo con la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Namo, let's go! Tutti convocati. Questo fatto che siamo adesso più noi che quelli della Juve dipende anche dal nostro lavoro con il club. Stiamo facendo bene e quindi speriamo di continuare così e di portare più giocatori possibili in nazionale. Ci sarà la rivoluzione, nemmeno un cannone però tuonerà. Ci sarà la rivoluzione, l'amore alla fine vedrai vincerà. Sono tanti giovani promettenti che stanno dimostrando, soprattutto in campionato, di fare grandi cose, quindi tutti penso che sì, possano essere pronti per questa rivoluzione. Vedo gli stessi Buffon, Bonucci, De Rossi, come è capitato a me il primo giorno che sono venuto qua, mi hanno cercato subito di farmi inserire il più facilmente possibile nel gruppo. E lo stesso vedo con i ragazzi che sono stati chiamati. Abbiamo sentito Romagnoli e Belotti, la nuova onda, new wave della nazionale. Pierluigi Pardo sempre con noi, Renato, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. A tutti, grazie della convocazione. Di cosa vuole parlare, di Trump o di... dell'allenatore dell'Inter. Belotti. Di Pioli, va bene. Io credo che Suning abbia praticamente detto ai tifosi interisti che siamo una squadretta da mezza classifica prendendo perché? Pioli perché non è un allenatore sicuramente da Inter. Quando perderà le prossime partite andremo in discussione per un ulteriore allenatore, quindi non lei chi l'Inter. Avrebbe preso? Ma al di là che non avrei assolutamente preso nessuno, punto, licenziato De Ver, bisognava forse farlo lavorare. Non è modo di fare e io credo che sia un messaggio chiaro alla tifoseria: siete una squadra da mezza classifica e per i prossimi X mesi o addirittura anni è quella la vostra aspirazione. Se mi permette, non sono d'accordo perché Pioli può, se mi permette, io non sono d'accordo, non so Pardo. De Boer è stata una scelta secondo me irrazionale. Pioli è una scelta razionale che invece può portare l'Inter con chiavi più semplici verso posizioni che le competono. Pioli è un buon allenatore, credo che ci sia molto da discutere su questo. È un buon allenatore, un allenatore che certamente con l'Inter adesso passa un nuovo step, un nuovo passaggio importante della sua carriera. Ha fatto cose importanti alla Lazio, che è nei risultati degli ultimi anni. Senti Pier, ma che voto dai a Pioli nei due anni alla Lazio? Perché l'altro giorno sentivo Michele Plastino, diceva 8. Io sono abbastanza d'accordo, cioè un voto alto per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda... Poi si è rotto qualcosa. Diciamo 7,5, perché secondo me l'eccezionalità dell'impresa del primo anno sicuramente è quella che rimane, anche se poi sicuramente le cose sono peggiorate e non può essere cancellato tutto questo, no, perché poi bisogna essere onesti nell'analisi. Però insomma Pioli è bravo, è un allenatore diciamo di categoria, un allenatore che ha dimostrato nella borghesia del calcio italiano di poter far bene, e questa è la sostanza secondo me. Certo, capisco il punto di vista dell'ascoltatore. Ovviamente se uno pensa all'Inter che vince il triplete nel 2010, pensa all'Inter di Mourinho, pensa all'Inter per quello che è nella sua storia, Pioli è un po' sotto questo tipo di tradizione, diciamo una scelta un po' emergente rispetto alla storia dell'Inter, ma la verità è che gli ultimi anni dell'Inter non sono stati in linea con la storia dell'Inter, sono stati nettamente sotto a quel livello lì, e quindi Pioli secondo me non ha niente, gli manca niente per poter allenare, ed è dal punto di vista della scelta secondo me la cosa più logica da fare in questo momento, perché non c'è dubbio che andare a sperimentare con un nuovo straniero, con un altro allenatore diciamo di prospettiva, poteva essere un doppio errore, un secondo errore. Rimane il punto interrogativo: perché è stato preso De Boer, e una volta che è stato preso perché non è stato difeso e perché non ci si è creduto? Questo è il vero tema. Beh, la risposta è facile, perché la società è abbastanza sbriciolata, no? Mi pare Piero. Sì, poi De Boer ha sbagliato, attenzione, perché sennò come sempre poi arriviamo, ci costruiamo delle vittime oppure ribaltiamo le situazioni. De Boer ha fallito all'Inter, ha fallito, cioè doveva e poteva fare molto meglio, e nonostante, cioè, dire che sia stato trattato male da una parte della stampa, che ci fosse un pregiudizio contro di lui, che non è stato difeso, sono le cose che io dico da settimane, non vuol dire che sia stato un allenatore che ha fatto bene all'Inter. Ha fatto male, e in questo suo far male non ha trovato nessuna protezione né da parte della società né da parte della stampa, che diciamo in larga parte la basta grata. La stampa fa il suo mestiere, sì, la società è difficile da individuare da questo punto di vista. Diciamo che con la scelta di Pioli ha vinto l'anima italiana dell'Inter. Sì, no, sul discorso che la stampa fa il suo mestiere, per carità, la stampa certamente fa il suo mestiere, non è quello. Se avessimo visto l'Inter giocare bene, come per esempio è successo contro la Juve, ne abbiamo parlato, no? Quindi non è che ci sia stata mala fede. Secondo me, in certi casi, siamo tutti, cioè ci sono degli allenatori che hanno un carisma e una... un'immagine che garantisce qualche immunità in più. De Boer, da questo punto di vista, era appunto un marziano, è arrivato qui, non ha in questo momento protezioni da parte della società, perché la società non ha una forza, una compattezza soprattutto per poterlo difendere, non l'ha difeso, e la stampa ha fatto il suo lavoro in questo tipo di ottica. Però attenzione, perché io mi ricordo la Roma con Luis Enrique, cioè poi se tu prendi un allenatore comunque che veramente viene da un'altra cultura, da un'altra scuola calcistica, devi avere poi, se fai questa scelta, che potresti anche non fare, ma se la fai, soprattutto se la fai a 15 giorni all'inizio del campionato, devi avere a quel punto la forza, le spalle larghe e la fede di crederci fino in fondo, altrimenti era meglio non farlo. Senti, ma come immagini l'Inter di Pioli? Ma credo che ci sia innanzitutto un tema che andreva, perché chiaramente si fa presto a far la pace, sì, ma sicuramente, anche perché Candreva è un giocatore che serve all'Inter, poi non è che Candreva con Pioli abbia fatto sempre male, anzi ha fatto anche molto bene, quindi Candreva ha i suoi massimi, ha fatto delle cose eccezionali, poi c'è stato qualche problema, ma penso che sia risolvibile. Io penso a una squadra appunto logica, razionale, una squadra che parta dalle sue certezze, che sono soprattutto da un equilibrio che con De Boer non ha mai avuto, un equilibrio sia tattico che direi psicologico, che con De Boer non c'è stato. Certamente il fatto di esordire con il derby è una grande suggestione, può essere anche un po' un rischio, da un lato può essere un'opportunità, è una partita talmente importante che già in 90 minuti Pioli si gioca molto dell'abbrivio, no? Del tipo di clima che si creerà subito dopo. Sì, Questo è indubbio, questo è indubbio. Io immagino un Inter molto più razionale di quanto sia stata con De Boer, dove era grosso modo un casino tattico. Pier, ti lascio andare ai tuoi impegni, noi ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con Franco e Amelio che sono già in linea e con un altro ospite che stiamo aspettando. Ciao Pier. Ciao ragazzi, ciao. A domani. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Convocati. I sogni non vanno mai, come si dice, bisogna sempre sognare qualcosa. Io ancora dei sogni li ho e me li voglio cullare. Chiaro che molto dipende dal club. Quest'anno io spero di fare belle cose insieme ai miei compagni e poi chissà, se dovesse tornare la nazionale sarebbe una grande soddisfazione, però insomma tutto passerà da qua da Verona. Tutto passerà da Verona, ma legittimamente Pazzini pensa alla nazionale, perché non abbiamo attaccanti, perché Balotelli è stato a quanto pare epurato dalla vecchia guardia, almeno per il momento, perché Pelle in esilio, per molti motivi. E Pazzini sta segnando ad ogni scarpa allacciata, come dicono in America. Io non so se Fabrizio da Cuneo, Nicola da Bologna, Amelio da Modena e Franco da Milano vogliono parlare delle elezioni americane, dell'allenatore dell'Inter o di altri argomenti. Fabrizio. Ok, allora no, io voglio parlare dell'Inter con un inciso di 2 secondi sull'interpretazione della democrazia. Negli Stati Uniti permettono di votare l'uomo più potente del mondo al popolo. Noi quando ci permettono di votare neanche il Presidente del Consiglio, ci mandano a votare solo se vogliamo l'acqua o il gas libero. Comunque, per l'Inter, l'Inter secondo me è comica perché continuano a cambiare allenatori e non si rendono ma conto. Ma se ci fossero delle libere elezioni, lei perché avrebbe votato? Ma libere elezioni avrei votato sicuramente per Trump. No, a proposito dell'Inter. Ah, per l'Inter. Ma io per l'Inter avrei votato sicuramente per una società e non per un allenatore, perché è inutile andare a prendere allenatore, perché questo non sarà l'ultimo. Qui lo dico, qui lo nego, avete il mio numero, richiamate come volete, dopo Pioli ce ne saranno ancora 2. Perché no, è inutile continuare a mettere una carrozzeria sopra un motore che non funziona. Continuano a prendere allenatori, quando un allenatore arriva si trova una società che non c'è. Mourinho ha fatto bene perché è arrivato, ha dato delle direttive, ha detto qui comando io. Finché non arriva uno con carisma come Mourinho, l'Inter non faranno mai niente, potranno prendere chi vorranno, perdono solo del gran tempo, fanno ridere. A me dispiace perché io sono juventino, ma non sono anti-imperista, mi piacerebbe vedere anche altre squadre oltre noi vincere sempre tutto. Sì. E quasi, siamo quasi noiosi, no? Beh, Mourinho ha i suoi problemi a Manchester, quindi non è detto che non torni, però questo lo vedremo vivendo. Pioli secondo me è l'allenatore giusto per l'Inter in questo momento. È una squadra in cui serve un ordine tattico, serve un minimo di logica che De Boer non è riuscito a dare. Amelio, buongiorno. No, ma praticamente mi ha anticipato Fabrizio adesso. I problemi dell'Inter non sono l'allenatore ma la società da sempre. Ma questo lo diciamo da tempo. Questo lo diciamo da tempo. Il risultato positivo l'ha dato Mourinho. Andare a prendere un Pioli, che io ho sentito dire da 7,5-8, è un uomo che ha avuto dei momentini da quel voto lì, ma in generale come allenatore è un normale, insomma, così. Se non si trova mica delle persone... Beh, degli però autori, non è detto che all'Inter non serva un normalizzatore. No, ma lui non c'è la società, non ha la forza quell'uomo lì. Per normalizzare c'è un cappello... che vi ricordate del Real Madrid, ci vuole un giusto Mourinho, ma più un cappello con spazio che vuole, allora potrebbe fare qualcosa, ma un Pioli io sono convinto di no, perché secondo me è un bravo allenatore, insomma. Se lui avesse dietro un'ottima società, era dimostrato la Lazio quando di presidente rappresenta, caricava la Lazio, lasciamo stare la... il presidente rappresenta, la tifoseria no, la tifoseria è contro il presidente. Insomma, Pioli è anche abituato a momenti e a situazioni di difficoltà. Io lo ritengo un allenatore piuttosto maturo per gestire il casino dell'Inter, quindi a me la scelta pare corretta in questo caso. Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, io purtroppo sono stato anticipato da entrambi tutti anticipati da parliamo di Clinton, delle elezioni americane. Volevo allora. Però, già che c'ero, e ormai di parlare di Pioli e situazioni similari potrebbe stancare. Ma sulle elezioni americane come la pensa? Secondo me ha vinto quello che ha colto il malcontento di una nazione intera sugli argomenti che ha proposto. Ormai la linea nelle varie sessioni elettive in giro per il mondo, in Europa, come così come in America, hanno visto tirare fuori personaggi che riescono ad arrivare alla pancia dell'elettore, e anche Trump ci è riuscito e ha portato a casa il risultato. Ormai l'elettorato sì. Guarda più quello rispetto ad altre situazioni, secondo me. Guarda il proprio orticello, ecco, mettiamola così. Guarda il proprio orticello in una situazione di difficoltà. Evidentemente questa è percepita dall'America come una situazione di difficoltà. Vabbè, parliamo di altro, dica. Le grandi città abbiano votato per la Clinton, quando le piccole, tra virgolette, città hanno comunque dato voto a Trump. Sì, questo è vero. Potrebbe essere un piccolo dato che può far capire come l'elettorato americano comunque delle piccole città, che piccole poi alla fine tanto non sono, sono comunque più piccole, hanno paura di trovarsi in situazioni come le grandi. Paura città. È la parola giusta, è la parola corretta. Quando l'America ha paura si va su sul voto relativo ad un uomo forte, ad un repubblicano, ma questo l'abbiamo già visto e sperimentato diverse volte, perché qualche annetto sulle spalle ce l'abbiamo. Parliamo di calcio? Volevo riagganciarmi al discorso di ieri su Balotelli, sul fatto che Ventura più o meno, o sì o no, lo possa eventualmente convocare. Io non riesco a capire, ma veramente, io abito a Bologna, non sono tifoso del Bologna, sono tifoso dell'Inter. A Bologna era arrivata la voce che quest'estate la società voleva prendere Balotelli. Il problema testa, atteggiamenti, comportamenti di Balotelli hanno frenato. Sicuramente la piazza si è spezzata in due, sia a Balotelli no a Balotelli. Questo è il problema che può avere anche Ventura. Cioè, Balotelli non è il campione che ti fa 30 gol a stagione e ti sposta gli equilibri di una squadra o della nazionale in maniera da dire: se lo lasciamo a casa vuol dire che non capiamo niente di calcio. Non è che lasciamo a casa un Cristiano Ronaldo, tanto per capirci. Lasciamo a casa un giocatore che comunque ti dà X gol a stagione, 10-12 gol a stagione, ma si porta dietro un fardello che ti va, rischia di farti scoppiare tutto quello che un allenatore lavora per una stagione. Però adesso a Nizza, ai confini dell'impero, come mi piace dire, Balotelli sta dando prodotto e risultati. È chiaro che lo aspettiamo per un po', no? Lo aspettiamo fino alla fine della stagione, però prima di dire Balotelli bocciato per la nazionale io ci andrei piano. Ci fermiamo per il GR, poi torniamo. Ah, non c'è il GR, abbiamo solo un pizzico di pubblicità e poi torniamo subito perché c'è l'assemblea di redazione. State con noi ragazzi, 800240024. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Convocati. Alessà, ho messo la sveglia solo per te. 42 anni, ti stai invecchiando, mannaggia miseria. Speriamo che sono stato il primo a farti gli auguri. Ciao bello, io mi rimetto a dormire adesso. A presto. Beh, che Totti fosse un po' assonnato si era abbastanza capito. Un sacco di ascoltatori, 800240024. Non so se vogliono parlare di Trump, di Pioli, di Hillary Clinton. Franco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io parlerei della cosa meno drammatica, quella dell'Inter. Meno drammatica. Ha già scelto un paese in cui scappare? No, beh, fortunatamente no, vivo in Italia, quindi lasciamo perdere, vabbè, comunque. Per quanto riguarda l'Inter, io sono felicissimo che abbiano preso Pioli, soprattutto per quanto riguarda la lista che era stata... così il casting aveva messo in mezzo Hiddink piuttosto che Marcelino, piuttosto che, ma per una semplice constatazione, faccio una domanda: vi ricordate Mourinho a parte? È l'ultimo allenatore straniero che ha vinto un campionato italiano, ve lo ricordate? Così a memoria no. Quindi vuol dire che bisogna andare dietro, se vuoi te lo dico io, l'ultimo è stato, a parte Mourinho, nel 90-91 Boskov, che aveva una squadra della Madonna, tra l'altro, che è arrivato in finale in Coppa dei Campioni, perdendola. Anche Eriksson ha vinto con la Lazio. Eriksson ha vinto con la Lazio? Forse me lo sarò perso. Ce lo siamo persi nella memoria, però Eriksson ha vinto con la Lazio di Cragnotti. Quello me l'ero perso. Campione. Comunque, insomma, si contano sulle dita di mezza mano. E di conseguenza io penso che abbiano fatto una scelta molto, molto... Oculata, assolutamente, perché... all'Inter oggi come oggi c'era bisogno, secondo me, di un allenatore come Pioli, che penso sia una persona preparata e che abbia una possibilità, e spero da interista che la sfrutti al meglio. Sì, io ho il suo stesso pensiero, cioè nel senso che Pioli è la scelta più razionale possibile nel mazzo dei nomi che sono stati fatti, quindi me l'ho detto fin dall'inizio. L'alternativa straniera poteva essere Hiddink, che ormai ha il ruolo di traghettatore già stampato addosso, ormai lo fa di mestiere, però Pioli mi sembra una scelta di buon senso. Fausto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vorrei parlare di Pioli, perché se parlo dell'America entriamo in un filone molto drammatico e anche grottesco. Per cui E allora proviamoci. Dica. Allora, parlando appunto dell'America, da un lato trovo il grottesco dovuto a gente come appunto abbiamo il nostro Presidente del Consiglio, che fino a ieri favoleggiava appunto dicendo che anzi ha appoggiato in toto l'elezione della Hillary Clinton. Mi auguro solo che sotto l'aspetto umanitario, ed è forse un'utopia, e sotto l'aspetto magari anche della salvaguardia del clima nel mondo, ci sia un futuro positivo in questo. Parlando invece di Pioli, dico che lei forse la pensa come me, però diciamo, avendo figli e quindi guardando al futuro, ho una gran paura. Avendo figli vale per entrambi, e quindi ho una gran paura anch'io. Che qua non si capisce più niente in questo mondo qua che viviamo, in mano alle lobby, in mano alle multinazionali, perché questa è la realtà. E quindi È sovrano, e il popolo così ha scelto, però ci teniamo le nostre preoccupazioni. Io infatti apprezzo che il popolo, almeno lì, almeno in quel mondo americano, dovrebbe essere sovrano, e quindi è sovrano nel senso che è lui che decide effettivamente nel bene e nel male. Sì. Speriamo che sia un male minore, punto. Ecco, punto. Quindi questo è il discorso. Va bene. Per quanto riguarda Pioli, sono d'accordo con lei, però io in toto non proprio, perché io avrei scelto Walter Zecca. E spiego perché. Da interista che nel sangue non ho capito. Il sangue rosso, ma bensì nero azzurro, sono convinto che ci volesse una persona che avesse proprio la pelle nerazzurra, perché per come ci stanno, diciamo, ormai distruggendo tutte le nostre basi culturali e sportive, sì, però, dovute anche a delle Fausto, scelte... mi perdoni, un conto è avere la pelle nerazzurra, un conto è fare l'allenatore ad un certo livello. Zenga lo ha dimostrato fino a un certo punto, quindi... So che è una scelta molto popolare tra i tifosi dell'Inter, so che è un nome molto popolare tra i tifosi dell'Inter, però io, se dovessi scegliere un allenatore, io sceglierei Pioli piuttosto che Zenga. Se dovessi scegliere un allenatore, non un portabandiera, una vessillo da mettere su un pinnacolo, quindi a me Pioli sembra una scelta molto razionale e molto oculata, Fausto. Io vado da Angelo e poi abbiamo un mio amico. Grazie, buona giornata. Dica. Siamo tutti dei tecnici, Pioli, Capello. Dei tecnici con due N. Tecnici, ecco, noi bergamaschi diciamo così. Dunque, per me Pioli non è quanto che non sia allenatore da Inter, perché Allegri era stato al Cagliari, ha vinto lo scudetto al Milan, è andato alla Juventus, chissà perché alla Juventus tutto va bene. Ma il fatto è che sono questi giocatori all'Inter che purtroppo hanno, mi permetti di dire una parolaccia? Vabbè, facciamolo. Una dai. Testa di cazzo. Chi sono è? Capaci, tutti, dai Cardi in poi, sono stati capaci di ciucciare dei soldi alla società, anche se segna le reti. Io, se fosse stato Juventus, con lì sarebbe già fuori dalle balle. Sì, eh? Sì. Io no. Io ecco, no, perché guardi che lei ha detto a me che sembra, andava avanti. A me sembra il giocatore più forte dell'Inter, però sono pareri personali. Poi io se mi permette una parolaccia, sugli scazzi con la tifoseria, sulle biografie, autobiografie e tutte queste cose, ci siamo già entrati e non andrei oltre. Invece saluto Leo Turrini, così risolve l'enigma. Allora, Leo, sei sì. Ferrarista, clintoniano, sì. Interista. Quindi dimmi tu cosa di peggio potrebbe ancora capitarmi. Del che resto, c'è una come... squadra sponsorizzata dai Bibitari che è prima nella Bundesliga. Alipsia. Insomma, caro Genta, come diceva Woody Allen... Gesù è morto, Marx è morto, nemmeno io mi sento tanto bene. Insomma, è una specie di congiure contro di noi. Adesso arriviamo anche all'Ipsia, prima però il traffico. Allora, sulla Pero Cormano, volevo dire, c'è una coda, no? C'è un furgone della Chrysler che procede molto lentamente, la Chrysler di Sergio Marchionne. A bordo ci sono Hillary Clinton. Sì. E Frank De Boer, che hanno caricato tutte le masserizie, lei credeva di andare alla Casa Bianca, De Boer pensava di fermarsi a Lugo. Insomma, siamo messi così. È più un furgone, più che un furgone, è un tir. Sì, è una situazione persino imbarazzante. Però, siccome ho sentito che ne parlavate, io invece, nella diciamo componente interista della mia persona, sono molto contento che abbiamo scelto Pioli per la panchina. È una delle prime mosse intelligenti fatte da questi cinesi. Marchionne non era disponibile? Marchionne penso che in questo momento abbia altre cose di cui occuparsi, anche perché ha promesso Mario Monti con la rossa del 2016 e alla fine questa Ferrari sembrava il governo Monti, nel senso che è tutto pianto e stridor di denti, no? 19 Gran Premi, 0 vittorie, rimangono solo due tappe. No, ti dicevo di Pioli, lo conosco benissimo perché ha allenato a Sassuolo, che è il mio paese, a Modena, a Parma, a Piacenza, era stato anche a Bologna, praticamente andava a allenare il Rogoredo, andava a allenare l'Inter, perché sì, poi tutti i casali dell'autostrada li aveva fatti, ma detto questo, penso che abbia la maturità, l'esperienza, le conoscenze per provare a fare un buon lavoro. Poi cosa si possa realizzare con questo organico francamente non saprei. Sì, si può realizzare qualcosa di buono, Leo, perché adesso non deprimerti più di tanto, però no, ma l'Inter io, guarda, a me sembra una squadra che no, non ma potenzialmente sì, non ha caso potenzialmente l'Inter, non ha niente, non da l'Inter ha battuto, cioè, la Juventus, il, che non è una cosa il che tronista riesca, il tronista, no? Come l'ho sempre chiamato e continuerò a chiamarlo, è un signor attaccante e la sbatte dentro con frequenza. L'organico non mi sembra messo male e mancano magari un paio di terzini, però non mi sembra che l'Inter sia così distante da Napoli a Roma, insomma. I terzini all'Inter sono una cosa dai tempi di Pistone, Macellari, no? Che torto, sì. Rare occasioni, è una specie di tormento infinito per noi tifosi. Sì, abbiamo avuto Breme, abbiamo avuto Maicon, ma insomma, se vai proprio a guardare ti spaventi, no? Io sono d'accordo con quello che stavi dicendo, perché Handanovic è un grandissimo portiere, Icardi è un grandissimo centravanti, sicuramente la classifica che attualmente ha l'Inter non è pari a quelle che sono le aspettative alimentate dall'organico. La mia perplessità è che se poi sei arrivato a quasi due terzi di giro d'andata e hai questa classifica qui, vuol dire che forse non basta soltanto, no, metterci giù il nome, avere la collezione di figurine, è un po' come Hillary Clinton, che è sempre in coda sulla Pero Cormano, no? Si chiama Clinton, segretario di Stato, ex first lady e tutto il resto, però alla Casa Bianca ci va l'amico di Flavio Briatore. Ora io dico, preparatevi, allattate le cinture, non si sa mai, ovviamente, che Trump faceva quel programma sei licenziato eccetera, no, l'apprendista lì alle TV americane, che sì, poi fu fatto da Flavione, sì, sulle, sì, televisioni, sì, italiane, sì, quindi, sì, io ve, sì, lo, sì, dico, se un domani ritrovate Briatore al Quirinale, insomma, passi per la Gregorati, che sarebbe una gran first lady, ma non dite che non ve l'avevo detto, No, io apoliticamente sto cercando un paese in cui rifugiarmi, se tu hai qualche idea dammela. Io andrei a Lipsia, dove appunto c'è questo ennesimo miracolo dei bibitari, no? Questi della Red Bull moltiplicano le lattine invece che i pani e i pesci, perché quando sono arrivati in Formula 1 non si difilava nessuno, anzi ti dirò, erano popolarissimi sin dall'inizio, ma per una ragione molto alla Trump e la Briatore: avevano riempito il box di gnocca. Nei primi anni la Red Bull portava delle caterve di Miss, no? Che venivano ad annoiarsi per l'intero weekend della corsa, poi la Red Bull arrivava decima e quattordicesima, ma tutti spendevamo volentieri una bella parola. Sì, no? Guarda, io ne ho parlato ieri con Marino Bartoletti, che era il gran sacerdote dell'apertura dell'EICMA, e diceva: purtroppo sulle moto stanno sedute le Miss, noi vorremmo vedere le moto. Sì, beh, adesso io penso che Marino abbia, come si suol dire, un'età per la quale può dire quello che vuole. No, ma lo dico anch'io, eh. No, pure alla mia età. È bravissimo, e poi devo dire che ha una competenza musicale che se la gioca con me, perché se io e Marino ci mettiamo a parlare dei Rocks, oppure evochiamo Nada come in degli anni un giorno lo facciamo, dato che ieri abbiamo fatto sentire Montagne Verdi. Bravo, Marcella Bella, vi possiamo sbalordire. Però dicevo, sti bibitari, poi superata la fase gnocca, poi hanno vinto 4 mondiali in Formula 1 con Vettel in macchina, no? Adesso hanno deciso di investire nella Bundesliga e hanno questa squadra che se la sta giocando con il Bayern. Tra l'altro non è che Lipsia, che era la ex DDR eccetera, abbia una tradizione calcistica paragonabile a quella dei bavaresi. Quindi si vede che poi sono anche bravi là dove intervengono con i soldi, riescono a investire bene, a far rendere quella che è la loro spesa, cosa che ancora non possiamo dire per gli amici di Suning, vero? E men che meno per Sergione Marchionne, che sì, ha presentato un bilancio trionfale 48 ore fa, la Ferrari azienda non è mai andata così bene, e però il detentore del premio godo dentro per quanto riguarda gli esimi di Marchionne, è l'avvocato Montezemolo che è là, voglio dire che insomma dice ma l'ho mandato via manco fosse l'allenatore di Zamparini perché non vincevo, no? Ed sì. Eccoci qua, dice allora che non prendi zero vittorie. Leo, dimmi la tua, visto che io Leo Torrini, dimmi la tua, visto che io ne ho prese un sacco sulla storia del casting. Il casting dell'Inter, dici? Il casting dell'Inter, cioè beh, no. Ora, allora, io non ritengo inopportuno che, anzi, è opportuno che si debba parlare con top manager, no? Quali sono gli allenatori. Però farli sedere tutti quanti lì in sala d'attesa a me è sembrata una procedura bizzarra. Io guarda, devo dirti, mi è capitato anche di scrivere sui miei giornali da interista, si può avere delusione, la squadra va male, certe prestazioni inguardabili che ci sono state, si può, talvolta anche si deve arrivare alla necessità di cambiare il tecnico in corsa, però quella cosa lì che sembrava che fossero a X Factor, sì, io francamente ho detto ma è il mondo che sta andando alla rovescia, che poi Trump va alla Casa Bianca, quindi magari hanno ragione i cinesi, eh? Magari adesso cominceranno tutti a fare così, no? Tipo, non so, quando in Barcellona deve cambiare Luis Enrique, fanno una bella selezione, chiamano lì in Catalogna, in un ristorante di paella, 10 aspiranti, no? Sì, una sì, volta, ma tu sai che a Parigi si sono incrociati Spalletti e Ancelotti, l'ha raccontato Ancelotti, per andare ad allenare da quelle parti, anzi per andare a allenare il Chelsea, quindi no, però no, sono incrociati per colloquiare con Roman Abramovich. Sì, quindi, secondo me la cosa da dire è questa, è normale, l'ha sostenuto anche Moratti, che in una società quando un presidente deve prendere una decisione eccetera, vaglia più opzioni e senta, certo, più persone, però, no? Moratti, se ti ricordi, era andato a Parigi a parlare, sì, con Mourinho. Quello che ti stupisce è quanto siano naif questi nipotini di Mao, no? Che dicono, bene, allora noi li facciamo venire tutti in un posto, in un albergo a Milano, poi avanti uno, fuori l'altro, e poi dopo, c'era anche, leggevo, il tale che invece veniva, diciamo così, vagliato telefonicamente, avranno fatto anche dei collegamenti con Skype, io non lo so. Però sai come si dice, la globalizzazione, bellezza, e allora niente, siamo sulla Piero Colomaro in coda. Mi dispiace se Hillary Clinton, che aveva tutte queste mascherizie già portate verso la Casa Bianca, era pronta per entrare, per riarredare tutto, cambiare un po' aria dopo Michelle Obama, arriva un amico di Briatore e finisce nel modo che sappiamo. Fate attenzione italiani, rischiate di trovarvi Briatore al Quirinale, non vi dico che rischiate di trovarvelo a capo del reparto corse della Ferrari Maranello, che magari vincerebbe pure, perché poi Flavio, sì, sì, sì, Formula, sì, 1 ha vinto 7 mondiali tra Benetton e Renault, piloti e costruttori, ma ve lo trovate sul colle più alto. Io non so cosa dire, quindi forse, guarda, alla fine questi cinesi del Suning sono il mare minore. Leo, guarda, ci troviamo in qualche isola del Pacifico, ok? Sì, sì, sì. Penso, ci vediamo con Bill Clinton, che poteva essere the first husband, il primo marito della storia degli Stati Uniti, e niente, e gli toccherà sopportare sta babbiona per i prossimi 20 anni, e a casa gli dirà ma è tutta colpa tua delle cosacce che facevi, pensa che io ho vinto due volte, siamo messi così. Ciao, comunque, meno male che c'è Carlo Genta. A presto carissimo, a presto. Ciao Leo, ti abbraccio tanto. Giacomo Bagnaschi qui con me. Puoi, ciao, scappare in Nuova Zelanda? Non è una brutta idea. Intanto i neozelandesi sono in Italia. Anche però, se gli All Blacks le hanno prese dagli irlandesi. Sì, gli All Blacks arrivano in Italia probabilmente con una formazione non al massimo, nel senso che avranno poi ancora da giocare la rivincita con l'Irlanda a Dublino e una partitina in Francia contro la Francia. Quindi credo che con l'Irlanda a Dublino non vorranno più perdere. Sarà una partita veramente, veramente notevole, e aspettiamo di vederla, se riusciremo a vederla, perché per adesso a quanto pare i diritti televisivi in Italia non sono ancora stati venduti. Loro comunque hanno fatto in tempo a battere il record assoluto di vittorie di fila tra le formazioni di prima fascia, hanno fatto 18 vittorie di fila in pratica con due squadre un po' diverse, quella che ha vinto il mondiale l'anno scorso nel 2015 e quella rinnovata che ha stravinto il championship dell'emisfero sud quest'anno. L'Italia li affronta con una formazione molto molto giovane, tutto sommato, anche se ci sono questi senatori, Paris, Cittadini, Giraldini e McLean, che dovranno dare un po' indicare la via ai loro compagni. C'è un mediano di Mischia esordiente, c'è un CT O'Shea che gioca le sue prime partite con gli azzurri in casa. C'è uno speciale su Radio 24, uno speciale online sul sito del Sole che naturalmente vi invitiamo a seguire. Per quanto riguarda l'Italia è doveroso anche dire che oggi i giocatori azzurri sono a Rieti e incontreranno i ragazzini delle zone terremotate, sì. Faranno un piccolo allenamento con loro. Come è giusto che sia. Come è giusto, giustissimo. Com'è bello che sia, sì. Tornando agli All Blacks, speriamo che abbiano pietà. Sì, ma diciamo l'Italia sicuramente non, è proprio il classico caso in cui non ha niente da perdere. I paletti messi dal nuovo CT che ha detto ho messo la migliore squadra possibile, forse però qualche giocatore se l'è riservato, perché ricordiamo che non è uno scherzo giocare 3 partite nell'arco di 14 giorni. Certo. L'Italia giocherà a Firenze sabato 19, a Padova sabato 26. Comunque una cosa interessante che ha detto lui, perché è la primissima cosa che ha detto alla prima conferenza stampa, ha detto l'Italia ormai gli avversari la conoscevano, sapeva che aveva, che ha un grande spirito, dava tutto fino a un certo punto e poi esauriva. Poi crollava. Dice questo non deve più succedere, noi dobbiamo essere sicuri di poter mantenere il nostro standard fino, certo, all'80esimo. Sarebbe già, credo, una buona cosa. Credo, Giacomo, sarei curioso anche tu di sapere come sia svegliata l'America questa mattina. C'è Simone Sandri da New York. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Allora dimmi come sia svegliata, come ti sei svegliato tu. E come si è svegliata l'America questa mattina? Io non mi sono svegliato perché non sono andato a letto. E l'America si è svegliata con la più grande sorpresa elettorale nella storia degli Stati Uniti, perché comunque tra sondaggisti e addetti ai lavori ed esperti nessuno avrebbe pronosticato la vittoria di Trump, e soprattutto nelle proporzioni in cui è arrivata. Una vittoria davvero schiacciante, con stati storicamente democratici che sono diventati da blu a rossi, come la Pennsylvania, il Michigan, cioè Ohio, dove un certo LeBron James ha fatto campagna elettorale domenica scorsa per Hillary Clinton, Trump ha stravinto il Michigan, ha vinto abbastanza bene la Florida, veramente una serie, un risultato inaspettato sotto veramente tutti i punti di vista, e forse la dice lunga anche sul modo in cui i sondaggisti, comunque l'approccio che hanno i sondaggisti adesso, soprattutto dopo la Brexit, ma anche dopo questo debacle clamoroso dei sondaggisti, forse è anche arrivato il momento per cambiare un po' atteggiamento. Sì, anche tu hai trovato una ragione in questo ribaltone? Io è quello che sostenevo da sempre, abitando anche a New York. La realtà è un po' come la Brexit, la realtà è che esiste, ci sono due Americhe, che è quella un po' se vogliamo radical chic, se vogliamo un po' esclusiva delle grandi città di Los Angeles, di Chicago, di New York e soprattutto di Washington, che è un po' out of touch con il resto degli Stati Uniti, un po' la stessa cosa che è successa con la Brexit Londra rispetto al resto dell'Inghilterra. E davvero è incredibile quello che è successo, il modo in cui è quest'onda di voti nei confronti di Trump, anche se consideriamo come è cambiato il ruolo dei media. Per esempio i media sono stati dichiarati tutti dalla parte di Hillary Clinton, non ha avuto un endorsement da nessun quotidiano, da nessuna. Donald Trump è stato deriso anche spesso dai media, e come il ruolo dei social media invece ha cambiato, ha portato un po' il messaggio di Trump, è rimbalzato grazie ai social media, ed è veramente un modo diverso, anche un approccio politico diverso, se pensiamo anche a quello che voleva dire anche per noi il controllo, tra virgolette, il controllo dei media. Fino a qualche anno fa, certo, sembrava quasi una garanzia di vittoria politica, invece, certo, adesso è quasi il contrario, quasi l'attacco dei media, quasi essere parte dei media è come essere parte dell'establishment, che è la cosa. Ci sono due binari. Senti, ho una battuta da Giacomo Bagnasco e ho ancora 10 secondi. Giacomo. Stiamo parlando di cose che hanno un po' sconvolto la storia. Torniamo alla storia dello sport, però rimanendo in America. In una settimana i Chicago Cubs hanno vinto un titolo che a loro mancava da 108 anni. Sì, ne abbiamo parlato. A Chicago gli All Blacks hanno perso dall'Irlanda e l'Irlanda non li aveva mai battuti in 111 anni. Queste sono cose che fanno pensare, e però ti dico anche un'ultima cosa. Sono segnali. Torniamo velocemente in Italia. Torno a sperare nello scudetto del Genoa, sono solo 92 anni che non lo vinciamo. Beh, aspetta ancora un po'. Certo, 16 anni ci siamo. Aspetta ancora un po'. Simone Sandri, grazie. Daniele, a presto. Grazie Giacomo Bagnasco, grazie. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia e Alvise Falzoni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Pisa Rosso, devi pisa stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!